Amici ascoltatori di musica elettronica, ciao a tutti! Tony, guarda quella, Tony! Oh, Tony, ma l'hai vista? Poi io ci provo. Saltare, non battere le mani, domani, su battere le mani, poi. Saltare, tu battere le mani, domani, su battere le mani, poi urlare. saltar, saltar, saltare, col battere le mani, domani, mani, mani, su battere le mani e poi saltare, saltare, saltar, saltar, saltare, saltare, saltare. E un altro fiorisce. Un disco finisce e l'altro fiorisce. Thank you. Gigi, la fai una compilation di sto programmino che è una figata, così poi me ne regali anche una a me che siamo amici. Raghi, roba di pubblicità. Gigi, questa è quella che piace alla pivella mia, che quando la metti in discoteca gli piglia tanto e in pista si scassa proprio, una figata. Se la piglia, saluto anche il mio cugino Pino, ci voglio bene. Dedicare una canzone? Non mi rompere il marrone. Il programmino è finito, leccatevi il dito.